trovati, ben trovate, le 14 in punto. Giovedì 7 maggio del 2009. Siamo sugli 87.900 in modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa. Visionari, il consueto appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Intanto i nostri riferimenti, il fax 06 44 63 616, per inviarci email visionari@ondarossa.info. La scaletta invece la trovate sul sito della radio, ossia ondarossa.info, www.ondarossa.info. Andiamo subito a scoprire i tanti ospiti di quest'oggi, cominciando con qualche regista. Rimanete lì. Buon pomeriggio a Serafino Murri, uno dei registi del film collettivo Facebook. Ci sei, caro? Ci sono. Oh, ben trovato. Tost e combattivo, ben trovati a voi. Come va? Molto bene, siamo in viaggio per Milano. Ah, è vero, oggi al MIF, no? Sì. Bene. Allora, raccontaci un po' di questa idea e di questa realizzazione. Ma dunque, l'idea è nata su Facebook, ovviamente, cioè perché eravamo sia io che il produttore Scaffardi amici su Facebook e comunque utenti abbastanza novelli, quindi infervorati. Uh-huh. E a un certo punto mi ha chiamato in chat. La mia? No, voglio sapere la tua su questo mondo, perché... La mia, io sono un utente abbastanza assiduo, okay. Cioè ho una pagina su Facebook, non su Facebook, no? Ti uso come blog, mm-hmm, okay. Nel senso che ci metto tutto quello che mi passa per la testa ogni giorno, una specie di diario in cui si scrivono i pensierini, insomma, è una cosa terapeutica, diciamo, mediamente terapeutica. Ok, allora... Però, dimmi. Da quest'idea poi, come, cioè da questo contatto che avete... Questo contatto considera che è avvenuto alla fine di novembre, okay. E lui che scrive romanesco anche in chat ha detto se devo muovere. Allora ci siamo visti all'inizio di dicembre, a metà dicembre erano reclutati gli altri registi, alla fine di dicembre erano pronte le sceneggiature. Mm-hmm. Ho un ritorno molto strano nel telefono, scusami. Sì, io ti sento. E poi abbiamo girato, insomma, a febbraio. Mm-hmm. E quindi un instant movie a tutti gli effetti, anche se instant movie, come tu mi insegni, è un termine usato in maniera dispregiativa, cioè parassitario rispetto a fenomeni che hanno già invaso la cultura popolare. Mm-hmm. E invece no, in questo caso è stata una buona occasione per cimentarsi con un fenomeno che secondo me la dice lunga su come siamo messi in questo momento in questo paese, qual è l'ansia di comunicare, qual è lo sbriciolamento che viviamo, insomma, ognuno davanti al proprio schermetto, illuso di poter comunicare con tutto il mondo. Sì. Oh, intanto diciamo anche che è un film a episodi e quasi tutti gli autori sono esordienti. Sì, quasi tutti gli autori, 5 su 7 sono esordienti, non completamente nel senso che hanno fatto delle belle cose prima, ma diciamo nel lungometraggio di sala sono esordienti. E poi come tradizione nella commedia all'italiana prendete di mira gli aspetti negativi di questa mania che ha contagiato milioni di italiani. C'è un po' tutta la gamma, è vero che il tono è quello di una commedia nera che affronta anche le cose più ciniche, ma soprattutto il meccanismo dell'esibizionismo voyeurismo, che è un po' la spia, no? l'immagine sì, avatar sì. dietro la quale si nascondono tutti i desideri di essere delle persone più che il modo di essere, no? Perché sai che su Facebook tutti sono almeno due cose, anzi anche tre, no, non come diceva Truffaut che tutti sono il proprio mestiere è quello del critico cinematografico, ma qui sono tutti, non so, impiegati eccetera eccetera, e poi artisti, cioè scrittori inediti, cantanti, attori eccetera, che espongono le cose e quindi in qualche modo è anche un'infiorescenza del desiderio in cui andare ad attingere. Quello che ci interessava raccontare comunque veramente non era Facebook in sé per sé come fenomeno, mm-hmm. ma quanto l'umanità che c'è dietro, cioè che cosa succede poi nel momento in cui si esce fuori dalla virtualità, la maggior parte degli episodi sono questo. Senti, che ritratto esce fuori del nostro paese in questo di questo periodo, questa fotografia, questa istantanea su questi anni? Ma in realtà il ritratto del paese più che altro è il ritratto di un paese di alienati, cioè che hanno un'ansia di comunicare incredibile, ma anche vittime di quel meccanismo che, adesso facciamo i colti, i due minuti di cultura arrivano, che il sociologo Bauman chiama insomma il nuovo proletariato, che non è più quello che non ha i mezzi di produzione e ha soltanto la prole, ma è quello che non è famoso, cioè il valore della fama, quei tre minuti di fama che fanno la differenza tra quelli che appartengono alla classe dei riconoscibili e i nuovi proletari che invece non sono riconoscibili, non hanno identità. Ora il valore vero è quello dell'identità e forse insomma Facebook è un po' l'indicatore del fatto che l'identità in questo momento è qualcosa che deve essere molto simulata con gli schemi della fama. Mm-hmm. No? Cioè, non si è famosi, dice Bauman, perché si è calciatori o cantanti, cioè, ma si è famosi perché si è famosi, cioè Totti è famoso perché è famoso, poi se fa il calciatore è un altro discorso. Mm-hmm. Ecco, direi che quello che esce fuori è un po' la società liquida, cioè dove tutti i rapporti sembrano immediatamente potersi accendere dal nulla e però poi la loro consistenza è quella dell'estemporaneità. Più o meno su questo molti degli episodi vanno un po' a scavare, allegria naturalmente. Certo. Senti, una delle vittime di questa mania secondo te non è proprio la socialità in carne ed ossa? Sì, perché in un certo senso è così, perché Facebook ha un po' sostituito la piazza o la strada gabberiana, no? Quella dove si va per incontrare, per fare esperienza, insomma, no? Se un tempo Gabber diceva che il giudizio universale non passa per le case, figuriamoci se passa per lo schermo di un computer. Però da un altro punto di vista, secondo me si torna comunque a parlare, a comunicare, a fare qualcosa che negli ultimi anni di completo rincoglionimento mediatico insomma si tendeva a non fare. Mm-hmm. E il problema è la consistenza di questi rapporti, di queste molteplicità di rapporti, questa febbre di avere tanti amici che poi sono amici solo virtuali, con i quali al massimo si scambiano le battute d'ascensore, insomma, no? Per lo più con i commenti che si fanno, no? Bella la tua foto, cose di questo tipo, questo è lo spessore, però è l'indicatore di qualcosa. Mm-hmm. Dunque, scusa, mi stiamo facendo alzare dal posto perché ho squattato un posto non mio sul treno. e quindi, cosa altro ti posso dire di bello? Come si chiama il mio episodio? No, non ce lo giuro, riloading. Allora, torniamo all'Instant Movie. È girato in 8 giorni, ogni episodio è girato in 8 giorni, quindi in contemporanea, e ha coinvolto circa 500 persone, sbaglio? Sì, più o meno, diverse decine di attori. Quindi immagino che ci sia stata una risposta pronta e positiva da parte di tutti quelli che ci hanno preso parte. Sì, è stata una sorta di sfida, questo veramente da un punto di vista produttivo, non avendo ricevuto un solo dollaro dallo Stato, perché tu sai che in questo paese è molto difficile fare un film senza aver già venduto i diritti antenna e non aver avuto qualche fondo, insomma in questo caso non è stato così, ma credo che questo sia stato dovuto principalmente proprio all'argomento, a qualcosa che era sulla bocca di tutti, a un fenomeno che era cresciuto viralmente, come si dice in gergo, no? Mm-hmm. Cioè da 700.000 utenze nell'estate a quasi 8 milioni dopo Natale. E quindi si sono fatti due calcoli le persone dicendo se l'utenza poi è la stessa, credo sia stato questo il ragionamento che c'era dietro. Senti, e dal punto di vista produttivo allora che meccanismo avete messo in piedi per risolvere il problema appunto dei soldi? Ma in realtà realtà questo te lo dovrebbe dire Scaffardi, il produttore, perché non mi sono occupato molto della produzione. L'unica vera scommessa produttiva alla quale ho partecipato è proprio la scelta. Noi avremmo potuto fare un film ad episodi chiedendo a dei grandi autori di cimentarsi con questa realtà, invece è stato scelto di scegliere degli esordienti, insomma, di chiamare delle persone che sono pure della generazione di Facebook, per lo più a raccontare qualcosa con uno sguardo forse magari disincantato proprio rispetto a quella commedia all'italiana che racconta le cose in una certa determinata maniera. Mi sentirei di dire che in questo senso non c'è un ossequio grosso ai maestri, c'è stato un tentativo abbastanza autonomo, indipendente dagli schemi della commedia italiana, anche quelle ad episodi. Capito. Senti Serafino, da domani nelle sale quante copie? Oltre 200. Beh, insomma. Oh. Quindi abbastanza ben distribuito, se contiamo quelle che sono le distribuzioni in questo momento e il livello di censura sistematica di tanti autori indipendenti che i loro film, che sono anche meravigliosi e strapremiati in tutti i festival del mondo, poi se li mettono in saccoccia, come si dice in gergo, quando si tratta di uscire in sala in Italia. Quindi siamo dei miracolati veri. Senti caro, allora un abbraccio e a presto. A presto, grazie. Ciao, ciao caro. Ciao, ciao. Serafino Murri, uno dei registi del film a episodi Faceboom, da domani nelle sale. Andiamo avanti. Telefono Davide Barletti del Fluid Video Crew per parlarci del suo film che sarà presentato al Tech Festival, ossia Radio Ignazia. Ciao Davide. Ciao. Ci sei? Ciao, buongiorno eccoci, a tutti. Ecco. Come stai? Abbastanza bene, abbastanza bene. Alle Senti, prese con lavori di casa. Allora, Radio Ignazia di cosa parla intanto? Allora, no, se ne approfitto anche per fare un altro piccolo comunicato. Certo. Nel senso che noi siamo presenti come, diciamo, produzione Fluid Video Crew con due film. Ce n'è uno stasera che co-diretto insieme a Edoardo Cicchetti e Lorenzo Conte, che è Diario di un Oscuro, sì, e prodotto dalla Citrullo International, che stasera, che apre insomma il primo giorno del festival, stasera alle 22:30, e poi domani quello di cui dicevi te, che è Radio Ignazia, diretto da me ma prodotto da Fluid Video Crew. Bene, e tra l'altro in questa edizione, dicevamo la scorsa volta con Massimo, che prevede diverse repliche per i film, quindi insomma immagino ci sia anche altre opportunità per vederlo. Sì, Radio Ignazia c'è domani, a venerdì alle 22:40, e poi lo danno in replica per chi non può e chi ha voglia il lunedì pomeriggio alle 16:30. Bene, allora passiamo all'argomento. Sì. Vai. Allora, che dire su Radio Ignazia? Radio Ignazia è un film abbastanza bizzarro. Mm-hmm. Per chi conosce la nostra produzione, si può dire che è un po' una prosecuzione di Italian Sud-Est in terra balcanica, e nel senso che di Italian Sud-Est conserva la cosa che in comune che c'è, che è un viaggio. L'altra cosa in comune che c'ha è diciamo la struttura veramente leggera con cui è stato girato, nel senso che è un film nato in realtà per non essere un film, ma era una ricerca che si è svolta nel giro di 3 anni, appunto a cavallo tra il Salento e le terre oltre il canale d'Otranto. Sì. La via Ignazia, si chiama Radio Ignazia perché noi abbiamo seguito questo tragitto, che è la via Ignazia, che è poi il proseguimento dell'Appia, che finisce a Brindisi in terra balcanica, che parte da Durazzo in Albania e finisce a Istanbul in Turchia. E un poco noi in qualche modo con uno che poi è uno dei protagonisti del film, che è Matteo Fraterno, con questo bizzarro artista napoletano, siamo un po' andati a ripercorrere questa strada provando a cercare di dargli un senso contemporaneo ad oggi, cioè una strada che era nata per vicende militari che serviva a unire un po' le due capitali dell'impero. Siamo andati un attimo a rivedere che cosa è rimasto, diciamo, oggi di questa strada, e lì abbiamo fatto un po' nello stile, ecco perché un po' c'è un punto di unione con Italian Sud-Est, un po' nello stile nostro, abbiamo fatto degli incontri, degli strani incontri lungo questa strada, e il film ha preso una sua direzione. Ha preso, sì, in realtà ne ha prese varie, insomma, sì. Diciamo che fra le tante una è quella che noi amiamo chiamare di cinema relazionale, mm-hmm. Che magari sacrifica un poco di qualità, che magari sacrifica un po' il racconto, altre cose che magari altri autori giustamente seguono per, diciamo, privilegiare poi lo scambio con i personaggi con cui incontri. Ecco, il film è un racconto di questo lungo viaggio che è durato tre anni e mezzo. Bene, quindi un lungo percorso, insomma. Sì, un lungo percorso, devo dire, messo poi insieme da messo insieme anche da un abbiamo trovato questo nome anche Radegnazza, perché poi abbiamo costruito in post produzione questa radio utopica, questa radio immaginaria, insomma, voi trasmettete da una delle radio utopiche immaginarie per eccellenza, e ecco, Radio Ignazia, per solidarietà, è anche una radio che noi ci siamo in qualche modo immaginato che esista, cioè una radio pirata che attraversa un po' tutta l'area balcanica, e man mano che, diciamo, noi andiamo avanti, che i personaggi del film vanno avanti lungo la direttrice della Via Ignazia, il commento sonoro è anche un po' tutto quello che racconta il film, si sposta man mano come una banda a punta delle radio a sincronizzazione delle onde medie, man mano che andiamo avanti, diciamo, i suoni cambiano e si influenzano e prendono, diciamo, varie direzioni. Devo dire che uno degli aspetti forse più interessanti del film, e questo, insomma, è avvenuto anche grazie poi alla post-produzione, sì. e alla creazione di tutti i suoni a cura di un grande musicista di Ostuni che si chiama Anton Giulio Galeandro. È un film molto cantato, ecco, questo bene, si può dire. Stanno, senti, molti suoni e molte parole. Tra l'altro si tratta della prima italiana? No, della prima romana, perché il film era in concorso a Torino, al Festival di Torino, all'ultima edizione. È un film che non ha produzione, è un film fatto veramente in casa in questi anni con lo sforzo un po' di tutti. E il Festival di Torino l'ha voluto in concorso nella sezione dei documentari, e poi è rimasto un po' congelato. In realtà è un film che è stato più visto all'estero, in Albania per esempio abbiamo già fatto 2 o 3 proiezioni, in Grecia anche, a Roma non è mai stato proiettato, e quindi lo proiettiamo domani al Tech Festival. Bene, allora ricordiamo il luogo, che è il Nuovo Cinema Aquila, e l'orario 22:40? 22:40, venerdì 8 maggio, o chi non può e ha voglia, lunedì 11, ore 16:30. Molto bene, Davide, in bocca al lupo, ciao, e a presto. Ciao, grazie. Ciao. A presto, ciao, baci. Davide Barletti, regista del film Radio Ignazia, domani al Tech Festival. Alessandro Fabrizi, regista del documentario Giving Voice. Buon pomeriggio. Come stai? Bene, grazie. Bene. Tu, voi? Bene. Allora, domani nelle sale il tuo documentario, intanto in quante copie? una copia, quindi per ora una al studio. Quindi andate a vederlo, perché insomma andate a vederlo. Poi comunque insomma al Film Studio è un buon posto dove cominciare, sono cominciate grandi cose là. Sì. Allora raccontaci un po', per chi ci ascolta e non vuole saperne un po' di più. Sì, beh, dunque le coordinate sono queste, che io da tanti anni seguivo il lavoro di questa signora che si chiama Christine Linklater, che lavora sulla voce per attori, e contemporaneamente facevo il regista e contemporaneamente contavo Stromboli. Sì. E a un certo punto mi è sembrato che Stromboli e delle storie dalle Metamorfosi di Ovidio e Christine potessero essere messi insieme in un unico progetto, per cui ho invitato 15 attori da varie parti del mondo a lavorare 4 settimane e abbiamo passato queste 4 settimane a lavorare con Christine su 7 storie dalle Metamorfosi di Ovidio, però ho invitato anche 4 operatori che hanno ripreso tutto quello che succedeva. E con le 550 ore di girato che mi sono ritrovato alla fine, esatto, 550, in due anni con Barbara Galli, che è la montatrice del film, abbiamo montato questo film di 1 ora e mezza. Allora, Christine è nota soprattutto a livello mondiale per il suo famoso metodo Linklater. Sì. Parlacene un po'. Guarda, il metodo fa riferimento al titolo di un libro che Christine ha scritto negli anni 70, che si chiama Liberare la voce naturale. Sì. E l'idea rivoluzionaria è appunto quella di non costruire una voce artificiale per esprimere le varietà di cose che un testo classico per esempio ci richiede di esprimere, ma liberare la voce con cui nasciamo, che secondo Christine già contiene in sé tutte le possibilità. Sì. Quindi di aprire il proprio io alla scoperta di un io più grande, più complesso, più variegato. La voce che usiamo abitualmente è modificata da sovrastrutture, dall'immagine che vogliamo dare di noi stessi. Cioè. Esatto, per quanto ci sia familiare, non è detto che sia la nostra voce di natura, cioè la voce con cui potremmo esprimere la nostra piena natura, appunto. Sì. Senti, com'è stata come esperienza? Forte, intensa, sconvolgente, molto bella. Ha creato anche dei grandi legami, come anche delle grandi rotture, scombussolamenti. Per me come regista è stato molto, molto stimolante, molto interessante, proprio mi ha fatto entrare in una nuova fase di lavoro per quanto mi riguarda, cioè quella di costruire a partire dall'esperienza che gli attori possono fare, offrire agli attori delle esperienze da cui poi costruire lo spettacolo piuttosto che imporre le mie idee, ecco, per cambiare. Una delle cose più di rilievo a mio avviso, intanto io l'ho visto e complimenti per il grazie lavoro, è che è uno di quei casi in cui uno può vedere il lavoro che c'è dietro a uno spettacolo teatrale, la preparazione di uno spettacolo. Sì, e infatti poi secondo me si vede qualcosa che non si vede mai, perché addirittura la preparazione prima ancora che comincino le prove, in un certo senso, sì. Proprio la preparazione degli attori ad affrontare le prove, ad affrontare le vere e proprie prove di messa in scena. Quindi in questo credo che sia un documentario unico da questo punto di vista, come pure credo che sia abbastanza unico, lo dico perché mi è stato fatto anche molto notare dalle persone che lo hanno visto, il lavoro che ha fatto Barbara, la montatrice, che è proprio quello di riuscire a ricreare l'atmosfera del laboratorio, che non è sempre facile nei filmati teatrali, anche perché ecco, mi chiedevi di com'è andata l'esperienza, una delle cose secondo me straordinarie è di come gli attori nel giro di pochi minuti si siano dimenticati delle macchine da presa che li riprendevano e si siano offerti proprio allo sguardo degli operatori in tutta la loro presenza. E quindi gli operatori sono riusciti anche a farsi abbastanza invisibili da rubare tutto quello che accadeva. Sì, si vedono anche movimenti forti, insomma, di esternazione del proprio stato d'animo. Sì. Sì, infatti. Senti, per quanto riguarda le musiche, è successa una cosa simpatica, perché giorni fa io avevo visto lo spettacolo Iago della Forte Braccio Teatro, sì, Gianluca Misiti, e poi l'ho ritrovato vedendo il documentario come creatore delle musiche originali e anche esecutore, perché le ha suonate al piano mentre sua sorella le ha cantate. Sì. Sì, beh, con Gianluca la collaborazione è nata proprio in quell'occasione. Poi abbiamo continuato a lavorare insieme, abbiamo lavorato insieme ad altri 3-4 progetti. Sì. Dopo quello è cominciata in quell'occasione, in realtà è cominciata con una cosa che poi Gianluca continua a rinfacciarmi benevolmente, dice che io gli chiedo di fare le cose che non fa mai. E in quel caso io gli chiesi di scrivere dei pezzi soltanto per chitarra, e Gianluca è un pianista, sì. Per cui si è trovato a scrivere dei pezzi per chitarra, però poi per lo spettacolo, poi nel documentario abbiamo anche usato, come hai sentito, dei pezzi al pianoforte, tra l'altro secondo me molto belli. Bene, caro, allora ricordiamo il cinema. Film studio di Roma, Orti da Libert. Esatto, da domani una sola copia, quindi andate a vedere Giving Voice. Sì, e domani sera ci saremo Cristin, io, Maya Sanza, Valentino Villa, Laura Mazzi, Gianluca Misiti e altri attori del film. Saremo presenti allo spettacolo delle 18:30, delle 20:30 e delle 22:30. Molto bene. Allora, un abbraccio e a presto. Un abbraccio a te, grazie mille e a presto. Ciao. Ciao Alessandro. Alessandro Fabrizi, regista del documentario Giving Voice, in uscita domani in un'unica sala qui a Roma al Film Studio. Ritrovato anche a Claudio Giovannesi, ci sei, caro? Ciao Federico. Oh, noi ti avevamo sentito mesi fa per il tuo documentario Welcome Bucharest e adesso ti sentiamo invece per il tuo esordio nel lungometraggio di finzione. Esatto. Che si intitola? La casa sulle nuvole. In uscita domani. Esatto, nel cinema Quattro Fontane, e poi sarà la prossima settimana al cinema Nuovo Aquila che sta al Pigneto e anche a Parco Leonardo. Allora, ti chiedo subito come si è nato e si è sviluppato, visto che insomma tu venivi dal documentario, questo certo. Progetto di film. Ma la matrice è stata anche qua documentaristica, nel senso che io prima ho fatto una lunga documentazione a Marrakesh, in tutto il Marocco, e poi mi sono concentrato su Marrakesh, sugli italiani che vivevano a Marrakesh. Sì. Quindi erano 22, quindi in qualche modo ho fatto questa documentazione su di loro, e a partire da questa documentazione ho scritto il copione, perché volevo raccontare una storia di emigrazione al contrario, cioè non l'emigrazione quella verso il nord o verso l'occidente, ma anzi un viaggio di abbandono dell'occidente progressivamente verso sud. Sì. E quindi per quello mi sono concentrato sugli italiani a Marrakesh. Sì. E poi a partire da questa documentazione ho individuato 3 tipologie di italiani che stanno lì, che insomma sono proprio quelli che ho incontrato. La prima è l'imprenditore che sta in Marocco a sfruttare la manodopera locale, per motivi così imprenditoriali si è trasferito. Poi un'altra figura curiosa invece è il gallerista, questi galleristi che hanno le gallerie a Marrakesh di arte contemporanea come se fossero a Soho, e poi intorno c'è tutta l'Africa, loro stanno murati vivi all'interno della Medina. E poi la terza tipologia, che invece è quella che in qualche modo è diventato il personaggio cardine del film, sono quegli animali, praticamente quella specie umana che vive vicino ai tropici, proprio, che sono gli italiani che se ne trovano a Bali, se ne trovano in Indonesia, a Cuba, quelle persone che hanno provato a condurre un'esistenza piccolo borghese. Sì. E in qualche modo sono fuggiti da ogni forma di responsabilità, di normalità. Mm-hmm. E sono andati a perseguire il loro sogno un po' naif in questi paesi caldi, e sono persone che hanno paura di invecchiare, però allo stesso tempo sono personaggi poetici estremamente ma come vivono lì, per esempio? Ma lì questo, per esempio, questo personaggio che è stato quello che io ho incontrato per fare il film, sta lì e faceva, era uno scultore di mobili etnici, aveva perso la testa per una ragazzina di 20 anni che aveva conosciuto in un nightclub marocchina e stavano là e cercava in qualche modo di fare l'artista. Io poi su questa persona, come questa là, ho costruito il personaggio e l'ho messo in relazione a due figli. Senti, e poi com'è stata l'idea di passare dalle riprese documentarie a invece a un film vero e proprio? Ma un po' perché a quel punto volevo raccontare una storia, cioè l'esigenza che c'avevo era parlare del conflitto padre-figlio, sì, che è, insomma, una tematica che mi interessa moltissimo, perché notavo in questo caso che mentre, diciamo, il conflitto padre-figlio nelle generazioni passate era appunto sconfiggere l'autorità del padre, sì, e adesso invece, soprattutto alcuni padri della mia generazione, era come quasi reclamare l'autorità, cioè figli che si trovano a essere padri dei loro padri in maniera paradossale. E un altro motivo è che mi andava, siccome non ne potevo più di sentire che parlavano dell'Islam e del Maghreb come dei fondamentalisti, sto stereotipo di musulmani fondamentalisti, volevo assolutamente invece mostrare il lato positivo dell'Islam che ho trovato là, e quella è stata la cosa più interessante, perché il modello di famiglia islamica, almeno in Nord Africa e in Marocco, ha assolutamente delle radici e delle motivazioni spirituali ed ha dei valori enormi, e quindi accostarla a questo modello un po' disgregato di famiglia che non c'era più, mi sembrava interessante dal punto di vista cinematografico. E i valori lì dell'Islam nel mio film sono assolutamente positivi, insomma, i personaggi che stanno là stanno da contraltare a tutti, così, questa bassa pubblica opinione che parla di fondamentalismo ogni volta che viene nominato l'Islam, che certo, mi dà fastidio profondamente. Certo. Senti Claudio, volevo sapere allora a questo punto come è strutturata quali sono gli aspetti positivi che ti hanno attratto nell'organizzazione, per esempio, familiare di queste zone? Ma sicuramente il senso di comunità è un'idea di famiglia non coercitiva, nel senso che lì veramente le comunità sono, la famiglia non è non è proprio un nucleo familiare, sono come dei clan, soprattutto nei posti più poveri, insomma, più popolari delle città marocchine, nei paesi, sì, i figli vivono insieme ai padri, ai cugini, e quindi questa comunità vive bene insieme, insomma, sì, condividono lo stesso luogo, condividono la stessa attività economica e c'è un senso di reciproca appartenenza e di reciproco aiuto in questo caso. Quindi a quel punto, quando arriva un elemento esterno, viene accolto a braccia aperte. Noi in Italia, la cosa che a me fa soffrire dell'Italia è che non è un paese multiculturale, è una delle cose che detesto di più del mio paese, che c'è l'italiano e c'è lo straniero. Senti, mi fa ritornare un po' in mente l'immagine di famiglia allargata di origine contadina che c'era anche qui in Italia fino ai primi anni del Novecento. Ed è la stessa, identica, alle stesse dinamiche proprio, alle stesse dinamiche, e soprattutto è caratterizzata da un forte senso di apertura, non di chiusura. Quando arriva uno straniero là, viene accolto a braccia aperte, si mangia insieme a qualsiasi ora del giorno e della notte. C'è una scena del film che racconta proprio questo, insomma, un'apertura enorme. Senti, come ti sei mosso poi per la realizzazione? Quali sono stati i tuoi passi? Ma i passi, purtroppo, per fare il primo film in Italia ci si mette un sacco di tempo, quindi quello è stato il periodo più difficile, nel senso che io ho fatto il centro sperimentale di cinematografia. Lì ho potuto incontrare Rai Cinema e l'Istituto Luce, che hanno iniziato a sviluppare, il soggetto. A quel punto ho fatto una lunga serie di sopralluoghi, però bisognava chiedere il contributo al Ministero dei Beni Culturali. Fortunatamente abbiamo ottenuto l'interesse di riconoscimento culturale al film, e quindi siamo stati finanziati dal Ministero, e a quel punto siamo riusciti con la produzione che si chiama Shooting Stars a chiudere il budget. Insomma, però ci è voluto veramente tanto tempo. Però comunque hai avuto, nonostante questi tempi lunghi, libertà poi di azione. Ma ci ho avuto, durante le riprese ci ho avuto libertà di azione assolutamente. Ovviamente durante la costruzione del film bisogna relazionarsi con i produttori in qualche modo, e quindi di conseguenza cercare di sviluppare il film senza tradirlo, che era la prima cosa, però allo stesso tempo anche non facendo un lavoro prettamente individuale, che questo un po' è la caratteristica della costruzione di un film. Claudio, soddisfatto del risultato? Ma da tanto, dal momento in cui coincide con una mia esperienza di vita e una mia esperienza di viaggio, quindi non potrebbe essere altrimenti in questo senso. Poi ovviamente vedendolo ci stanno delle cose che mi piacciono moltissimo, altre tutto è perfettibile e migliorabile, no? E altre che dico qui potevo fare qualcosa di più, potevo andare più dentro, però nel complesso sono molto felice, insomma, molto soddisfatto del film. Poi la cosa che mi ha fatto piacere, abbiamo fatto delle anteprime anche fuori dall'Italia, a Los Angeles, l'ultima a Buenos Aires, e agli argentini il film è piaciuto tantissimo, l'hanno acquistato e sarà distribuito anche in Argentina a ottobre. Bene. Senti, ora vediamo come va nelle sale domani. Esatto, esatto. E si ha immaginato anche un percorso festivaliero per il tuo film? Ma noi siamo stati, abbiamo iniziato con questo festival a Bari, questa edizione numero zero organizzata da Laudadio, poi siamo stati a Los Angeles e adesso staremo in concorso a Bruxelles a giugno, e forse stiamo aspettando risposta da Carlo Vivari e da Shanghai comunque. E poi sicuramente faremo tramite l'Istituto Luce tutti i festival del Nord Africa, proprio per restituire quello che abbiamo preso in qualche modo, cioè per tornare là col film e farglielo vedere, insomma. Bene. Mi sembra doveroso. Claudio, allora in bocca al lupo e ci risentiamo presto. Crepi il lupo, un abbraccio Federico. Ciao, ciao, ciao. Claudio Giovannesi. E questa è Visionari su Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza. Ogni giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema. Tutte le informazioni per quanto riguarda la scaletta potete trovarle sul sito www.ondarossa.info. Proseguiamo. Enrico. Benvenuto ad Enrico Nosei, direttore dei programmi per la Fondazione Cineteca Italiana, che cura la rassegna Spazio Oberdan 10 e Lode 1999-2009 a Milano, cominciata il 6 e finirà il 24 maggio. Buon pomeriggio. Salve, grazie, anche voi. Tutto bene? Come sta andando? Tutto bene. Beh, abbiamo appena cominciato ieri sera molto bene, con una partenza molto coraggiosa, perché con un film del 1915, Guglielmo Oberdan, Martire di Trieste, accompagnamento dal vivo, una partenza molto da cineteca, insomma. Cui faceva seguito poi un Dick Tracy in 70 mm, quindi abbiamo fatto un po' di cortocircuito fra l'antichissimo del cinema e non dico il presente, perché insomma Dick Tracy è un film che c'è da quasi una ventina d'anni, ma comunque il 70 mm che aveva rappresentato un importante passo avanti, un tentativo di miglioramento tecnologico delle proiezioni cinematografiche, che abbiamo appunto recuperato in questa rassegna che ne prevede 8-9 titoli, grandi film della storia del cinema, ma anche cinema d'autore girato in 70 mm come Playtime di Tati, e che abbiamo deciso appunto di inserire in questa festa di Spazio Oberdan. Allora, parlaci un po' intanto di questo decennale. Ma insomma, è un decennale di una sala, è sempre, insomma, un traguardo significativo, anche perché insomma, come abbiamo evidenziato pubblicando un libro che riassume tutta questa, l'attività di tutti questi 10 anni, è stato un percorso quantitativamente importante. Crediamo anche qualitativamente, insomma non sta a noi dirlo, però vediamo che Spazio Oberdan è diventato un punto di riferimento per Milano, forse anche non solo per Milano, perché avendo noi un occhio di riguardo sempre per il cinema italiano, abbiamo anche avuto ospite, non dico tutto il cinema italiano, una gran parte, soprattutto sì, una gran parte degli autori più importanti. Quindi credo che insomma un po' di fama se lo Spazio Oberdan se la sia costruito. Beh sì, un punto di riferimento culturale, non solo per la città, insomma, mi pare. Non solo per la città. Mm-hmm. E poi insomma i numeri parlano da soli, 3500 film intesi come titoli diversi, se poi ci mettiamo le repliche eccetera, siamo oltre 7000 proiezioni, moltissimo cinema restaurato, moltissimo cinema in lingua originale con i sottotitoli, questo volume che si chiama Non sono gli anni, sono i chilometri, un titolo scherzoso ripreso da Indiana Jones, mette proprio in evidenza il tipo di offerta che è stata fatta. Abbiamo calcolato, sempre scherzando, 14.000 chilometri di pellicola proiettati in questi 10 anni. Senti, a questo punto la domanda più importante probabilmente, il pubblico, il vostro pubblico, il pubblico dell'Oberdan in tutto questo tempo? Pubblico dell'Oberdan, vabbè, un altro dato sono i circa 320.000 spettatori che abbiamo avuto, ma è un dato che sicuramente è un po' calcolato per difetto, sì, perché noi facciamo anche molte proiezioni a ingressi semiliberi, insomma queste robe qua, quindi poi è difficile star dietro alle presenze effettive. Sì. Il pubblico adesso ci siamo così, diciamo, stabilizzati sulle 30.000 presenze l'anno, abbiamo avuto forse fino a un paio d'anni fa una crescita che è andata anche oltre. Devo dire che insomma è sempre più complicato far passare l'idea di un certo tipo di cinema di qualità, di cinema retrospettivo. Sì. È anche vero che essendo attivi da 10 anni, facendo veramente, lavorando praticamente tutto l'anno, tutti i giorni, con sempre film diversi, diventa anche impegnativo fare delle proposte che continuino ad essere interessanti e allettanti per il pubblico. Però siamo molto contenti, perché poi andiamo anche su un discorso di qualità del pubblico, non soltanto sì, di sì, numeri, sì, sì, e da questo punto di vista, ripeto, siamo molto contenti, perché ci sembra sempre un pubblico attento che apprezza certe proposte, che insomma che ci segue e ci gratifica un po', ci dà soddisfazione quando riusciamo a mettere in cantiere o a realizzare insomma delle offerte interessanti. Oh, chiaramente come ogni rapporto c'è un dare e un prendere, ti chiedo a questo punto se ci sono stati anche da parte del pubblico stimoli per la vostra proposta culturale. Ma non stimoli diretti, noi abbiamo cercato sempre di coinvolgere il pubblico tastandone il polso in modo anche un po' sotterraneo, ad esempio attraverso i numerosissimi incontri che cerchiamo sì, sempre di fare con autori, attori e quant'altro, insomma gente di cinema in generale, e da lì si colgono, no, delle neanche delle richieste, ma insomma degli innamoramenti, delle tendenze che possono funzionare. Ricordo solo che l'anno scorso abbiamo fatto questo omaggio al 68, ai 80 anni del 68, e abbiamo deciso di far fare praticamente la rassegna al pubblico, nel senso che abbiamo chiesto al pubblico, agli spettatori, di indicare il loro film di riferimento legato anche al 68, anche all'idea, diciamo, vicino al 68, e abbiamo avuto una bella risposta, una bella adesione. Alla fine abbiamo fatto una rassegna di oltre 20 film scelti fra quelli che erano stati più votati, diciamo così, più indicati dal sì, pubblico sì, stesso. Sì, sì, sì, sì. E anche quello è stata una cosa, un bel momento insomma di partecipazione collettiva. Del resto anche questo decennale visto che è il decennale di una sala cinematografica, non della Cineteca, insomma, che c'è da molto più tempo, l'abbiamo un po' orientato con delle proposte che rilanciano la nostra sempiterna idea del cinema che va visto al cinema, e quindi il formato 70 mm, anteprime, cinema, cioè proiezioni che sono arricchite dall'accompagnamento musicale dal vivo oppure da concerti, cioè stiamo cercando di sostenere e difendere strenuamente sempre un'idea di partecipazione, di confronto, di incontro collettivo, quindi di vicino della sala come luogo in cui si vede uno spettacolo ma anche si incontrano altre persone. Mm-hmm. Ci tengo a dire, lasciamelo dire, che questa avventura cominciò grazie alla volontà della provincia di Milano del 1999, che affidò questa sala da loro restaurata, ristrutturata alla Cineteca, e ancora oggi la provincia di Milano naturalmente è presente e ci sostiene, il loro sostegno è molto importante per la nostra attività. Senti Enrico, per chi vuole saperne di più c'è anche un catalogo online della vostra rassegna? C'è sempre tutto il programma www.cinetecamilano.it, come sempre nei nostri programmi, però la gente ci può anche contattare, c'è il libro che è a disposizione di chi lo volesse avere. Abbiamo pubblicato un cofanetto CD più DVD, il CD con il film proiettato ieri sera, Guglielmo Oberdan, restaurato, è un CD musicale in cui sono raccolte le più belle partiture scritte da una nostra musicista di fiducia che si chiama Francesca Bavalini in questi 10 anni. Sono degli estratti da queste partiture che lei ha composto per accompagnare grandi, conosciuti, meno conosciuti ma a volte altrettanto grandi film muti. Molto bene, allora in bocca al lupo per questo lungo viaggio fino al 24 maggio e anche oltre, chiaramente. E a risentirci prossimamente. Grazie a voi. Ciao Enrico. Ciao. Enrico Nosei, direttore dei programmi per la Fondazione Cineteca Italiana per quanto riguarda la rassegna Spazio Oberdan 10 e Lode 1999-2009 Milano dal 6 al 24 maggio. Andiamo avanti. Vincenzo Scuccimarra, buon pomeriggio con te per parlare della rassegna Film Spray. Eccoci qui, ben trovato. Ben trovati a voi. Allora, tu, se non sbaglio, sei uno dei curatori della rassegna. Dunque, non esattamente, io ho collaborato a scegliere dei film insieme ad altri. Okay. E in particolare, insomma, qui a Roma sono stato coinvolto. E niente, ditemi pure. Allora, Roma, Firenze e Tuscania dal 7 al 9 maggio, sono 8 titoli se non sbaglio, no? Sì, sono 8 titoli, c'è anche una selezione di cortometraggi che volevo sottolineare. Certo. Perché comunque, insomma, sappiamo tutti che dai corti poi, come ci dimostrano, insomma, gli ultimi anni vengono fuori poi i registi più interessanti del cinema italiano, e quindi c'è anche una selezione di cortometraggi oltre a questi 8 film che sono stati scelti dando un po', insomma, cercando di mettere in luce i film di qualità che sono stati un po' penalizzati dalla distribuzione, nel senso che alcuni non hanno avuto proprio una società di distribuzione che li ha comprati, che li ha acquistati, altri ce l'hanno avuta, ma sono usciti poco, diciamo, dalle sale. Tra l'altro, quelli in programma quasi tutti sono stati nostri ospiti, per esempio. Mi fa piacere, vuol dire che insomma avete un'attenzione, c'è sempre, certo, cura, certo, sì. Sì, insomma, poi ci sono appunto film di vario genere, abbiamo anche cercato in qualche modo di che fossero rappresentativi un po' di tutto il territorio italiano, sì. Cioè una delle cose più interessanti dei film cosiddetti indipendenti è che in qualche modo sono decentrati, no, rispetto a, insomma, al solito film italiano girato a Roma e dintorni, diciamo, sì. Per cui ci sono dei film che hanno delle location anche la provincia, insomma, anche la provincia, dal sud al nord, insomma, e abbiamo cercato anche di dare questa un po' un ritratto, diciamo, dell'Italia meno conosciuta attraverso questi film. E poi niente, c'è da dire che alcuni di questi hanno avuto appunto dei riconoscimenti importanti anche all'estero, sì. Anche se non, poi non sono stati distribuiti in Italia, questo è un paradosso molto, diciamo, italiano. Ad esempio c'è questo film che è L'estate di mio fratello di Pietro Reggiani, che ha ricevuto un premio nel 2005 dalle mani di Robert De Niro al Tribeca Film Festival, che peraltro è in corso credo proprio in questi giorni a New York, sì. Nel 2005 questo film è stato premiato, e questo film, che è un po', diciamo, il simbolo di tutti gli altri per quanto riguarda le vicissitudini di distribuzione, non ha avuto una distribuzione italiana, ma bensì gli stessi autori e produttori hanno organizzato una sorta di autodistribuzione, sì, del film, che sì, peraltro sì. È andata piuttosto bene, bene. Un sistema particolare per cui praticamente hanno prevenduto i biglietti del film, e con l'incasso di questa prevendita hanno noleggiato delle sale, sì. In Italia per un certo periodo. E in qualche caso, diciamo, gli esercenti di queste sale poi ci hanno anche guadagnato, nel senso che che oltre ai soldi del noleggio della sala che gli veniva offerto dai produttori, poi hanno avuto anche degli incassi, insomma, sorprendenti. E quindi, insomma, sì, insomma, poi tutti i film hanno un po' una storia a sé, però le caratteristiche sono queste, insomma, sì, di una certa sì. qualità, che non sono stati visti abbastanza. Oh, esiste un sito con il programma dei film in programma e delle date e dei luoghi? C'è questo sito che è filmspray.it, sì. Dove appunto si possono vedere i programmi nelle varie città, insomma. A questo punto io direi, in chiusura potremmo anche citarli, visto che sono 8 titoli, almeno per quanto riguarda, sì, i titoli sono Come l'ombra di Marina Spada, Cover Boy di Carmine Amoroso, Il giorno, la notte, poi l'alba di Paolo Bianchini, Rabdomante di Fabrizio Cattani, L'estate d'inverno di Davide Sibaldi, Sfiorarsi di Angelo Orlando, Nelle tue mani di Peter Del Monte, L'estate di mio fratello di Pietro Reggiani. Bene, la metà sono stati qui da noi. Bene. Allora ti ringrazio e in bocca al lupo. Grazie per questa rassegna. Grazie che comincia oggi. Ciao. Andrea Galante, direttore della nona edizione del MIF Awards Milano International Film Festival dall'11 al 19 maggio, ben trovato. Grazie, sono qui ben trovato, ma sono anche un po' stanco, devo dire, però le cose stanno andando molto bene. Bene. Il MIF Awards cambia nome, cambia logo, ma cambia nome come giustamente annunciato. E non siamo più un film festival tradizionale, ma siamo un ibrido tra così Oscar e così awards format e film festival. E quindi siamo alla nuova edizione, ma con un formato nuovo. Questo è importante dirlo, sì. Certo. Allora, cosa prevede, allora diciamolo subito, questo nuovo formato rispetto per esempio Noi abbiamo acquisito le regole dell'Academy Awards, che vengono copiate di pari pari per ogni nazione quando si fanno gli Oscar di ogni nazione, tipo David Donatello, il BAFTA in Inghilterra, eccetera, o altri premi o altri diciamo eventi a formato awards come Golden Globe o gli Spirit Independent, eccetera. Utilizzano tutte le stesse regole che sono state inventate dall'Academy nel 1920, per gli Oscar. E quindi ci sono le nomination, 5 per categoria, film devono uscire, comunque devono avere un'uscita di una settimana in sala per poter partecipare, magari queste sono cose che non tutti sanno. Mentre invece nel formato dei film festival, che invece è, diciamo, l'altro evento a focus culturale per il cinema, dove ci sono, diciamo, film in competizione e comunque ci sono alcuni premi che vengono messi in palio, dove c'è una giuria, eccetera. Invece trattasi di film, invece ecco, quest'altro formato trattasi di film in anteprima. Questa è la differenza principale delle due. Bene. I criteri di premiazione sono diversi. In uno sono nomination, categorie, 5 per categorie, come dicevamo, nell'altro invece, diciamo, sono una quindicina di film, seconda, 10, poi con tutto il programma ci sono varie sezioni competitive. E si può arrivare anche a 200-300 film. Però ci sono, diciamo, non so, 2-3 premi per ogni competizione. È prevista. Quindi... scusa, ti ho interrotto, vai. No, quindi diciamo sono due formati che hanno quasi degli obiettivi diversi, celebrano sempre il cinema, però diciamo uno, come dire, premia le persone, l'altro premia più i film. Nel caso appunto delle categorie, quando si hanno 5 nominati per miglior montaggio, è ovvio che si nomina la persona. Certo. Capisci? E quindi, insomma, ecco, ci sono alcune differenze. Comunque queste sono tutte informazioni che possono, le abbiamo spiegate molto bene, e poi come è fatto anche il sito si capisce molto bene. E poi una cosa molto importante, abbiamo spostato la serata di premiazione dalla fine del festival all'inizio. E quindi cosa succede? C'è un periodo di gestazione delle nomination, come avviene in tutti, diciamo, gli award format. Poi premiamo subito le nostre nominee e facciamo il film festival con i film che vincono. Ho capito. E alla fine della settimana in cui mostriamo i film vincitori, c'è il pubblico, dà la sua opinione, e quindi c'è il premio del pubblico. Quindi è proprio opposto a quello degli awards, degli Oscar, delle eccetera. Un percorso al contrario, insomma. Sì, è un percorso al contrario, perché in quello degli Oscar c'è il pubblico che vede prima i film, perché devono uscire in sala. Sì. E quindi il box office è un primo bilancio di come andrà il film, del successo del film, e dopodiché la critica viene dopo, intendo critica ai membri delle Academy, eccetera. Ho capito. Durante i film festival pubblico e critica, intendo critica, quindi giuria, eccetera, vedere i film insieme durante il film festival. Sì. Durante il nostro abbiamo una critica prima, perché comunque i film vengono selezionati attraverso la programmazione, comunque i programmatori sono dei professionisti, eccetera, e poi vengono giudicati attraverso una giuria che comunque è di livello, e dopo viene il pubblico. Bene, bene. Quindi, Andrea, vogliamo diamo anche come riferimento per il programma il sito del MIF? Assolutamente, che è sì. www.mif come l'acronimo in inglese Milano International Film Festival, sì. .it. E so che ho parlato, mi sono dilungato molto. Non ti preoccupare. E quindi non so adesso quanto tempo ancora c'è. Siamo in chiusura. Però ecco, le cose così del programma importanti, direi che lunedì c'è una giornata che abbiamo dedicato ai corti, che bene, sono l'unica categoria che viene trattata come film festival classici, cioè quelli li facciamo vedere tutti e poi li premiamo. E poi diamo il premio alla carriera a Martin Landau, che sarà a Milano. Ci sarà un evento di beneficenza in cui lui verrà premiato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per i terremotati di L'Aquila. Bene, bene. E quindi e questo è il 12 maggio. Bene. Allora, in bocca al lupo per il festival e a presto, a risentirci presto. A risentirci prestissimo, magari anche dopo il festival tiriamo un pochino le conclusioni. Ah, perché no, certo, questo, certo. Di questo nuovo formato. Un abbraccio, ciao Andrea. Ciao, ciao. A presto, ciao. Noi siamo in chiusura, l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Rimanete in sintonia con noi.